noi ieri nella conferenza stampa abbiamo citato un articolo del Sole 24 Ore, che non è certo l'organo né dei Verdi né del movimento dei precari, della rete dei disoccupati che domani sabato manifesterà a Roma dalle 15 a Piazza della Repubblica in questa grande manifestazione nazionale per il diritto al reddito. Però il Sole 24 Ore, organo di Confindustria, 10 giorni fa aveva mezza pagina dedicata alla riflessione sul reddito sociale come forma di tutela dei lavoratori precari, dei lavoratori atipici, dei lavoratori flessibili, ossia anche l'organo patronale tende conto che questa questione prima o poi anche in Italia dovrà essere affrontata come l'hanno affrontata in Europa e come è presente anche negli stessi Stati Uniti. Ovviamente è un emendamento che ha un valore politico, anche se l'abbiamo fatto tecnicamente in maniera da essere compatibile con il bilancio dello Stato e l'abbiamo fatto seguendo le indicazioni tecnico-finanziarie dell'ufficio della Camera dei Deputati della Commissione Bilancio. Questo cosa ci dimostra? Che tecnicamente i soldi per pagare l'introduzione in Italia del reddito sociale minimo ci sono. Ci rendiamo conto ovviamente che l'emendamento potrebbe, rischia di non essere approvato, ma per una ragione politica. Poi se invece del 2005 lo si vuole far entrare in funzione nel 2008, noi saremo pronti a ragionare e a trovare una mediazione. Noi abbiamo detto, l'abbiamo detto proprio nella settimana in cui è entrata definitivamente in applicazione la legge 30, la legge Biagi, che riorganizza le tipologie di contratto di lavoro atipico, precario e flessibile, che guardate che in Italia c'è un'emergenza di cui continuiamo a far finta che non esiste, ma che nei prossimi anni diventerà esplosiva. A causa della disoccupazione e della precarietà aumenta la povertà, bisogna costruire un modello di Stato sociale capace di fare i conti con questa nuova moltitudine di soggetti non garantiti. Noi abbiamo indicato come fonti di finanziamento del reddito sociale di cittadinanza il ripristino della tassa di successione per i capitali superiori ai 400 milioni e 200 mila euro che era stata tolta all'inizio della legislatura da Berlusconi. Proponiamo la tassazione delle speculazioni finanziarie, portando a un'aliquota uguale per tutti le speculazioni finanziarie, cioè dal 12% al 23%. Proponiamo una tassazione sul capital gain delle imprese con più di 500 abitanti. Proponiamo una riduzione ferrata e un riordino a tutti gli sprechi che ci sono sui corsi di formazione professionale e sugli stipendi dei lavoratori socialmente utili, che ovviamente beneficiando dell'assegno del reddito di cittadinanza troverebbero una loro tutela senza più bisogno di ricorrere alla macchina dei lavori socialmente utili, quindi mettendoli a parità degli altri disoccupati e precari. Ossia vi sono degli strumenti di bilancio su cui si può intervenire e certo ci vuole una scelta sulla legge finanziaria che sia radicalmente alternativa a quella del centrodestra, ne siamo consapevoli. Il centrodestra vuole togliere le tasse ai ricchi, togliere i servizi alle classi sociali più deboli. Noi proponiamo di aumentare e riordinare i servizi sociali e le garanzie sociali in questo Paese, facendone pagare il costo soprattutto a chi in questi anni ha guadagnato immensi profitti, in particolare nella speculazione finanziaria, senza neanche quindi prendersi l'onere del rischio di impresa creando posti di lavoro.